Pensate attentamente. Si tratta di un organo che ricopre tutta la superficie esterna del dromedario. È visibile, non è all'interno e serve proprio a proteggere il dromedario e regolare il calore.